Il superiore, il molto reverendo John Conmee S.J., rimise l'orologio liscio nella tasca interna scendendo la scala del presbiterio. Le 3:05, c'è giusto il tempo per andare a piedi fino ad Artane. Come si chiamava quel ragazzo? Dignam, sì. Vere dignum et justum est. Padre Swan era la persona da interpellare. La lettera di Mr. Cunningham, sì. Usargli cortesia, se possibile. Buon cattolico attivo, utile al tempo delle missioni. Un marinaio con una gamba sola, che si spingeva avanti a pigri strattoni delle stampelle, ringhiava alcune note. Si fermò con uno strattone davanti al convento delle suore di carità e tese un berretto dalla visiera a punta per l'elemosina verso il molto reverendo John Conmee, S.J. Padre Conmee lo benedisse al sole perché il suo borsellino, lo sapeva bene, conteneva una sola corona d'argento. Padre Conmee attraversò la strada in direzione di Mountjoy Square. Pensò, ma non per molto tempo, ai soldati e marinai che con le gambe mozze dalle cannonate terminavano i loro giorni in qualche corsia d'ospizio e alle parole del cardinale Wolsey. Se avessi servito il mio Dio come ho servito il mio re, egli non mi avrebbe abbandonato nei giorni della vecchiaia. Camminava all'ombra alberata di foglie solammiccanti e verso di lui venne la moglie di Mr. David Shee, deputato al Parlamento. Benissimo, padre, veramente. E lei, padre? Padre Conmee stava davvero benissimo. Probabilmente sarebbe andato a Buxton per la cura delle acque. E i suoi figliuoli? Si trovavano bene a Belvedere? Ah, davvero? Padre Conmee era proprio contento di saperlo. E Mr. Shee ancora a Londra. Già, il Parlamento era ancora aperto. Bel tempo faceva. Meraviglioso davvero. Sì, era probabilissimo che padre Bernard Vaughan tornasse a predicare. Oh sì, un grandissimo successo, proprio un uomo meraviglioso. Padre Conmee era felicissimo di vedere che la moglie dell'onorevole David Shee stava così bene in salute e la pregò di ricordarlo all'onorevole David Shee. Sì, avrebbe senz'altro fatto una visita. Buonasera, Mrs. Shee. Nell'accomiatarsi, padre Conmee si tolse il cappello di seta e sorrise. Mentre si congedava, alle perline nere della mantiglia di lei, che mandavano lampi d'inchiostro nella luce del sole. E sorrise ancora una volta nell'allontanarsi. Si era pulito i denti, lo sapeva bene, con pasta di noce di palma. Padre Conmee camminava e, camminando, sorrideva al pensiero di padre Bernard Vaughan con quei suoi buffi occhi e quella sua voce da Cockney. Pilato, perché non tieni a bada quella marmaglia urlante? Un uomo zelante, comunque, certo che lo era, e certo faceva del gran bene a modo suo, non c'era dubbio. Diceva di amare l'Irlanda, lui, e di amare gli irlandesi. E di buona famiglia, poi, chi l'avrebbe mai detto? Gallesi, no? Oh, attento a non dimenticarsene, quella lettera al padre provinciale. Padre Conmee fermò tre scolaretti all'angolo di Mountjoy Square. Sì, erano di bel vedere, la casetta. Ah, ed erano bravi ragazzi a scuola? Oh, allora benissimo. E come si chiamava? Jack Soan. E quell'altro? Ger Gallaher. E quell'altro ometto? Si chiamava Branny Lanham. Oh, quello sì, era un bel nome. Padre Conmee dette una lettera che teneva nella tasca sul petto al signorino Branny Lanham e indicò la rossa cassetta delle lettere all'angolo di Fitzgibbon Street. Ma attenzione a non infilartici anche tu nella cassetta, omettino, disse. I ragazzi sgranarono sei pupille su padre Conmee e risero. Oh, padre! Beh, vediamo se sa impostare una lettera, disse padre Conmee. Il signorino, Branny Lynam, attraversò di corsa la strada e mise la lettera di padre Conmee al padre provinciale nella bocca della cassetta rosso fiammante. Padre Conmee sorrise e annuì e sorrise e si incamminò lungo il lato est di Mountjoy Square. Mr. Dennis J. McGinney, professore di danza, eccetera, in cappello duro, marsina color ardesia con risvolti di seta, cravatta bianca a fiocco, pantaloni lavanda attillati, guanti color canarino e scarpette di cuppale a punta, avanzando con grave portamento, si fece molto rispettosamente da parte per cedere il passo a Lady Maxwell all'angolo di Dignam Square. Non era mica Mrs. McGinnis? Mrs. McGinnis, imponente, argentea le chiome, fece un inchino a padre Conmee dal marciapiede opposto lungo il quale veleggiava. E padre Conmee sorrise e salutò. Come stava? Bel portamento il suo. Come Maria Regina degli Scozzesi, qualcosa del genere. E pensare che faceva l'usuraia. Ma, con un, come dire, un aspetto così regale. Padre Conmee scese giù per Great Charles Street e lanciò un'occhiata alla chiesa libera, ermeticamente chiusa sulla sua sinistra. Parlerà, divu, il reverendo T.R. Greenbia. Lo chiamavano l'incombente. Sentiva incombere il bisogno di dir qualche parola. Ma bisognava essere caritatevoli. Ignoranza invincibile. Agivano in base ai loro scarsi lumi. Padre Conmee svoltò l'angolo e imboccò la strada di circonvallazione nord. Straordinario che non ci fosse una linea tranviaria lungo un'arteria così importante. Certo, avrebbe dovuto esserci. Un gruppo di scolari, con le loro cartelle, attraversò la strada venendo da Richmond Street. Si tolsero tutti i loro berretti gualciti. Padre Conmee li salutò più di una volta benignamente, ragazzi delle scuole dei fratelli cristiani. Padre Conmee, nel camminare, avvertì odore di incenso sulla mano destra. La chiesa di San Giuseppe a Portland Row, per donne anziane e virtuose. Padre Conmee si levò il cappello davanti al Santissimo Sacramento. Virtuose, ma qualche volta erano bisbetiche. Nei pressi del palazzo al Borough, padre Conmee pensò a quel nobile spendaccione. E ora c'erano degli uffici, o simili. Padre Conmee si incamminò per North Strand Road e ricevette il saluto di Mr. William Gallagher, che era sulla soglia della sua bottega. Padre Conmee salutò Mr. William Gallagher e percepì gli odori provenienti dai quarti di lardo e dai grossi pani di burro. Oltrepassò Grogan il tabaccaio, al cui negozio erano appoggiati tabelloni di giornali che parlavano di una spaventosa catastrofe a New York. In America quelle cose capitavano continuamente. Disgraziati, morire in quel modo, impreparati. Eppure, un atto di perfetta contrizione. Padre Conmee oltrepassò il bar di Daniel Bergin, contro la cui vetrina oziavano due disoccupati. Lo salutarono e furono a loro volta salutati. Padre Conmee passò davanti all'impresa di pompe funebri H.J. O'Neill, dove Corny Keller allineava cifre sul brogliaccio, masticando una pagliuzza. Un vigile di servizio salutò padre Conmee e padre Conmee salutò il vigile. Da Eukstetter, Norcino, padre Conmee osservò dei salsicciotti bianchi e neri e rossi, arrotolati ordinatamente a spirale. Ormeggiato sotto gli alberi di Charleville Mall, padre Conmee vide una chiatta da torba, un cavallo da tiro a testa penzoloni, Un barcaiolo con cappello di paglia sporco seduto sulla chiatta a fumare, con gli occhi fissi su un ramo di pioppo sovrastante. Era una scena idillica e padre Conmi rifletté sulla provvidenza del creatore, che aveva messo la torba nelle paludi, di dove gli uomini potevano cavarla e portarla nelle città e nei borghi per accendere il fuoco nelle case dei poverelli. Sul ponte Newcomen, il molto reverendo John Conmee S.J. della chiesa di San Francesco Saverio a Gardiner Street Superiore salì su un tram diretto alla periferia. Da un tram in arrivo dalla periferia, il reverendo Nicholas Dudley C.C. della chiesa di Sant'Agata a North William Street discese al ponte Newcomen. Al ponte Newcomen, padre Colmi salì su un tram diretto alla periferia perché non gli piaceva di traversare a piedi la triste strada che costeggia Med Island. Padre Colmi sedette in un angolo della vettura, con il biglietto azzurro infilato con cura nell'occhiello di un paffuto guanto di capretto, mentre quattro scellini, una moneta da 6 pence e 5 penny scivolavano dal palmo dell'altro guanto paffuto nel borsellino. Oltrepassando la chiesa coperta d'edera, gli venne in mente che il controllore di solito si presentava quando, senza pensarci, si era buttato via il biglietto. La gravità dei passeggeri nella vettura sembrava eccessiva, padre Conmi, trattandosi di un tragitto così breve e a buon mercato. A padre Conmi piaceva una dignità non priva di gaiezza. Era una giornata tranquilla. Il signore con gli occhiali di fronte a padre Conmi aveva finito di dare spiegazioni e abbassava lo sguardo. Sua moglie, arguì padre Conmi. Un minuscolo sbadiglio fece aprire la bocca alla moglie del signore con gli occhiali. Alzò un piccolo pugno guantato, sbadigliò, ma tanto garbatamente, dandosi colpetti col piccolo pugno guantato sulla bocca che si apriva, e sorrise appena appena dolcemente. Padre Conmi avvertì il suo profumo nella vettura. Avvertì pure che il goffo individuo che l'era al fianco dall'altra parte sedeva sull'orlo del sedile. Padre Conmi alla balaustra dell'altare aveva qualche difficoltà a mettere l'ostia in bocca al goffo vecchio cui tremolava la testa. Al ponte Ansley il tram si fermò e quando fu in procinto di ripartire, una vecchia si alzò ad un tratto dal suo posto per scendere. Il bigliettaio suonò il campanello per far fermare la vettura. Sfilò davanti agli altri col suo paniere e la reticella della spesa e padre Conmi vide che il bigliettaio aiutava a scendere lei e la reticella e il paniere. E padre Conmi pensò che siccome la donna aveva quasi oltrepassato il termine della corsa da un penny, fosse una di quelle brave persone cui si deve sempre dire 2 volte «Ti benedico, figlia mia», e che sono state assolte. «Pregate per me». Ma avevano tante preoccupazioni nella loro vita. Tanti pensieri, povere creature. Dai cartelloni, Mr. Eugene Stratton ghignava con le sue grosse labbra da negro all'indirizzo di padre Conmi. Padre Conmi pensò alle anime dei neri e dei caffè latte e dei gialli e al suo sermone su San Pietro Clavers S.J. e la missione africana e alla diffusione della fede. E ai milioni di anime nere, caffè latte e gialle che non avevano ricevuto il battesimo dell'acqua quando la loro ultima ora giungeva come un ladro nella notte. Quel libro del gesuita belga, Le Nombre des Élus, sembrava a padre Conmi che sostenesse una tesi ragionevole. Erano milioni di anime umane create da Dio a sua immagine e somiglianza, alle quali la fede, DV, non era stata portata. Ma erano anime di Dio, create da Dio. Sembrava a padre Conmi che fosse un peccato che dovessero andar tutte perdute, uno spreco, per così dire. Alla fermata di Offroad, padre Con mi scese, fu salutato dal bigliettaio e salutò a sua volta. La strada di Malahide era tranquilla. Piacevano a padre Conmi la strada e il nome. Campane a festa rintoccavano nell'allegra Malahide. Lord Talbot de Malahide, Lord Ammiraglio, per diritto ereditario diretto di Malahide e dei mari adiacenti. Poi ci fu la chiamata alle armi ed essa fu vergine, sposa e vedova, tutto in un solo giorno. Erano quelli bei tempi antichi, tempi di fedel sudditanza nelle gaie cittadine, i bei tempi della baronia. Padre Conmi, camminando, pensò al suo libretto I bei tempi della baronia e al libro che si sarebbe potuto scrivere sulle istituzioni dei gesuiti e Mary Rochford, la figlia di Lord Molesworth, prima contessa di Belvedere. Una dama svogliata, non più giovane, passeggiava da sola lungo la sponda del lago Ennel. Mary, prima contessa di Belvedere, svogliata a passeggiar la sera, senza trasalire al tuffo di una lontra. Chi mai sapeva la verità? Non certo il geloso Lord Belvedere e neanche il suo confessore, se lei non aveva consumato pienamente l'adulterio. Eiaculatio seminis inter vas naturale mulieris col fratello di suo marito. Confesserebbe a metà se non avesse peccato del tutto, come è costume delle femmine. Solo Dio lo sapeva, e lei, e lui, il fratello di suo marito. Padre Conmi pensava a quella incontinenza tirannica, pertanto necessaria alla razza degli uomini sulla terra, e alle vie di Dio, che non sono le nostre. Don John Conmi camminava e si muoveva nei dì che furono. Quivi era umano e onorato, teneva a mente i segreti confessati e sorrideva a nobili volti sorridenti in un salotto lustro di cera d'api col soffitto inghirlandato di frutta mature, e le mani di una sposa e di uno sposo, nobile con nobile, erano unite palma a palma da Don John Conmi. Era una giornata incantevole. Il cancello di un campo mostrò a padre Conmi distese di cavoli che gli facevano la reverenza con l'ampio fogliame. Il cielo gli mostrò un gregge di nuvolette bianche portate lentamente dal vento. Moutonné, dicono i francesi. Parola familiare e appropriata. Padre Conmi, leggendo l'Uffizio, osservava un gregge di nubi montoneggianti sopra Red Coffee. Le sue caviglie inguainate dalle calze fini furono titillate dalla stoppia del campo di Clongowes. Lui ci veniva a passeggio la sera, a leggere il breviario, e sentiva le grida delle squadre di ragazzi intenti ai loro giochi. Grida giovanili nella quiete della sera. Era il loro rettore, il suo regno era mite. Padre Conmi si sfilò i guanti e tirò fuori il breviario bordato di rosso. Un segnalibro d'avorio indicava la pagina. Ora nona. L'avrebbe dovuta leggere prima di colazione, ma era venuta Lady Maxwell. Padre Conmi lesse in segreto Pater e Ave, e si fece il segno della croce, Deus in adiutorium. Passeggiava tranquillo e leggeva silenziosamente le preghiere dell'ora nona, passeggiando e leggendo, finché non arrivò a Res in Beati Immaculati, Principium verborum tuorum veritas in aeternum omnia iudicia justitiae tue. Un giovanotto accaldato sbucò dal varco d'una siepe e lo seguì una ragazza con delle margheritine di campo che le tremavano in mano. Il giovanotto si levò il berretto bruscamente, la ragazza bruscamente si chinò e lentamente con cura si staccò un ramoscello dalla sottana leggera. Padre Conmi li benedisse ambedue gravemente. e voltò una sottile pagina del suo breviario. Sin principes persecuti sunt me gratis et averbis tuis formidavit cor meum.